Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. €45 milioni in arrivo per gli interporti italiani. Lo ha reso noto nelle scorse settimane il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con l'annuncio di un bando dedicato a quegli hub logistici italiani che presenteranno progetti in linea con una serie di obiettivi strategici nazionali, fra cui la sostenibilità, lo sviluppo dell'intermodalità, la connessione alla rete europea di trasporti TEN-T. Il concetto alla base di questa realtà è infatti l'incontro delle diverse modalità di trasporto per lo scambio delle merci e la connessione con altre zone strategiche dal punto di vista produttivo e della movimentazione, come i porti e le ferrovie. Attualmente in Italia se ne contano più di 20 dislocati da nord a sud, ognuno con delle caratteristiche diverse in base alle infrastrutture del territorio. Alcuni interporti occupano attualmente le primissime posizioni della classifica europea dei centri intermodali. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. E ci occupiamo oggi, come avete ascoltato anche dalla nostra scheda iniziale, di interporti, di questi nodi fondamentali per la movimentazione delle merci, nodi di scambio fra modalità che sono stati oggetto di un importante intervento da parte del Ministero dei Trasporti, che ha deciso di finanziare €45 milioni per queste strutture. Ne parliamo oggi in compagnia del nostro ospite, che è Matteo Gasparato, presidente di WIR, l'Unione degli Interporti Italiani. Buongiorno, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi e buona giornata a tutti. Allora, cominciamo proprio con il definire questi interporti. Abbiamo detto luoghi di scambio delle merci, in realtà è una semplificazione perché sono anche luoghi di stoccaggio, ma perché sono così importanti? Perché sono considerati i nodi della movimentazione delle merci? Beh, come lei ha detto, l'interporto, che spesso è considerato questo oggetto strano, diciamo così, è un complesso organico di infrastrutture, ma anche di servizi che sono servizi integrati, che hanno una rilevanza nazionale. Innanzitutto, molto spesso queste, io le accomuno spesso, pur avendo una realtà giuridica, diciamo così, differente, come delle autorità di sistema portuale, sono un po' delle autorità di portuali di porti secchi. Di terra, praticamente. Esattamente, di terra. Gestiti, anche se nella propria compagine hanno spesso soci pubblici, sono la tendenza alla gestione in forma imprenditoriale, al fine appunto di favorire, come lei ha ben detto, la mobilità delle merci tra diverse modalità di trasporto, quindi ferro, gomma, nave, eccetera, con l'obiettivo appunto di accrescere l'intermodalità e l'efficienza dei flussi della logistica. In ogni caso, all'interno dell'interporto, per essere definito tale, deve comprendere uno scalo ferroviario idoneo a formare o comunque ricevere treni completi e avere collegamenti esistenti con i porti, gli aeroporti e le vie di grande comunicazione. Di fatto la rete degli interporti costituisce una delle infrastrutture fondamentali per il sistema nazionale dei trasporti. E io aggiungerei che è pertinente al perseguimento di interessi pubblici di rilievo generale, perché, e questo lo abbiamo potuto, mi permetta, constatare nel periodo di Covid, hanno garantito e garantiscono la continuità dello scambio merci, sostanzialmente anche in momenti in cui potrebbero intercorrere, ad esempio, alcune forme di lockdown, di blocco, insomma. Nel periodo di lockdown questi interporti, riconosciuti come nodi fondamentali della rete logistica, hanno continuato a lavorare e garantire lo scambio appunto della merce tra la gomma, il ferro e le varie modalità. Certo. Tra l'altro lei è il presidente dell'Interporto Quadrante Europa, il consorzio ZAI, che è attualmente tra i primi due interporti in Europa per importanza, quindi una struttura che sarà stata messa sotto pressione durante il periodo del lockdown. Sì, assolutamente, infatti, come lei giustamente ricorda, proprio quest'anno abbiamo ricevuto la notizia che dopo la classificazione, diciamo così, dell'Interporto Quadrante Europa al primo posto nel 2010 e nel 2015 degli interporti europei, quest'anno è stato indicato come il secondo ad un solo punto dell'Interporto di Brema, ma la soddisfazione importante è che nei primi 15 interporti, stiamo parlando di un esame che ha coinvolto più di 100 interporti, all'interno dei primi 15 ci sono parecchi interporti italiani, Parma per esempio, Nola, Bologna, Padova, quindi insomma siamo tra i più efficienti e importanti nodi interportuali europei. Questo ci dà soddisfazione perché comunque questa classifica è fatta dai tedeschi, quindi non c'è il dubbio che abbiamo varato, diciamo così, sui dati. È stato un momento molto complicato proprio perché non siamo mai stati interessati per tutto il periodo del lockdown mai a fermarci un attimo, quindi abbiamo garantito la continuità del servizio, soprattutto terminalistico, per tutto il tempo H24, con notevoli difficoltà iniziali, perché quando all'inizio, come voi tutti purtroppo ricorderete, mancavano magari dispositivi di sicurezza, non erano ancora chiare, certo, le norme, le regole, abbiamo agito, certo, in assoluta, come dire, quasi anche improvvisando, ma abbiamo garantito la sicurezza dei lavoratori, degli autotrasportatori, dei terminalisti, di chi guida le locomotive, e abbiamo continuato a fornire un servizio. Ecco perché dicevo prima, c'è un interesse sostanzialmente pubblico di carattere generale che noi garantiamo sostanzialmente, quindi in parte sono strutture pubbliche, in parte sono strutture private, ma di fatto hanno una funzione ben precisa. Certo, ecco, veniamo proprio a questo interesse pubblico con questo bando del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che mette a disposizione 45 milioni di euro a fondo perduto per cofinanziare dei progetti. Ecco, di che cosa si tratta nello specifico? In effetti, a seguito appunto di questo bando, siamo chiamati a, come dire, siamo chiamati come destinatari di questa appunto selezione che verrà fatta per mettere a disposizione delle risorse destinate al completamento della rete nazionale degli interporti. In particolare viene fatto riferimento al Mezzogiorno, quindi saranno la maggior parte di queste risorse comunque destinate agli interporti del Mezzogiorno, che oggi ricordo essere 4 in particolare con le caratteristiche di interporti. Dovremmo abbastanza correre sostanzialmente perché è stata posta la scadenza del 21 di agosto come data utile per la consegna dei progetti sostanzialmente, e poi una volta arrivati alla definizione di quelli che sono ammissibili, come quindi finanziabili, ci saranno 180 giorni per far partire i progetti, e quindi ci sono delle scadenze abbastanza stringenti. Certo. Oltre ai progetti definitivi che dovranno essere presentati, ci sarà un piano economico finanziario di sostenibilità dell'intervento, perché come lei ricordava l'intervento può essere finanziato fino al 60%, ma poi una parte deve essere appunto fatta con risorse proprie. Con interventi privati, certo, è ovvio. Esatto, e quindi poi una relazione che dimostri insomma il rapporto di coerenza con gli obiettivi anche del documento che noi conosciamo, Connettere l'Italia. E quindi c'è un cronoprogramma, diciamo, delle attività abbastanza stringente, e si tratta di un cofinanziamento, quindi dovremo lavorare molto per essere, diciamo, coerenti e in linea con i tempi. In questo tipo di intervento sono ammessi appunto tutti gli interventi sotto l'aspetto della sostenibilità ambientale ed energetica, dell'intermodalità ovviamente finalizzata all'eliminazione dei colli di bottiglia, lo sviluppo del concetto di retroportualità, tutte quelle opere stradali e ferroviarie che siano finalizzate appunto al potenziamento delle connessioni fra gli hub portuali e interporti. Insomma, misure che dovrebbero rafforzare in qualche modo ancora di più il ruolo di queste infrastrutture. Esatto. Bene, termina qui anche questo spazio dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Matteo Gasparato, presidente dell'Unione Interporti Italiani. Il prossimo appuntamento con Container è sabato alle 13:15 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.